Tonight it's a celebration for everybody on our team. So many of you who have traveled. Questa notte diventerà una ricorrenza per tutti quelli che lavorano affinché l'America sia più grande, e molti di questi sono fra voi. Sono felice e incoraggiato, perché quello che ho visto questa notte è un nuovo corso della politica americana. Un nuovo corso desiderato dalla politica americana, così come questo nuovo corso ha bisogno di un governo americano, che inizia da qui, dall'Iowa. In Iowa.